Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono contento che si sia fatta questa riunione. Non importa il dove, si doveva tenere in Libia, ma le condizioni di sicurezza non l'hanno permesso. Ma le iniziative da domani dell'Unione Europea vedranno un cambio di passo. Al ministro turco chiederà di fermare l'invio dei soldati di Ankara in Libia. Fatemi fare prima gli incontri. Grazie. E l'incontro sta avvenendo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro Di Maio col suo omologo turco proprio in questi istanti. Vedo quest'ultima agenzia che dice: il ministro degli esteri Luigi Di Maio è arrivato a Istanbul, dove sta incontrando appunto Cavusoglu, che è il ministro degli esteri turco, al centro dei colloqui quando si apprende il dossier libico. E infatti, care ascoltatrici e cari ascoltatori, torneremo a parlare di Libia. Abbiamo cominciato ieri la prima puntata del nuovo anno di Effetto Notte con le due principali crisi internazionali, che sono quella che riguarda la fortissima tensione tra Iran e Stati Uniti dopo l'uccisione del generale iraniano, e poi quella che è il caos libico, insomma, dove l'Italia cerca di ritagliarsi un ruolo che però, secondo il nostro commentatore di ieri, esperto di Libia, insomma, a quanto pare al momento è pari a zero. Però intanto, come avete sentito, Di Maio è andato a parlare in Turchia a proposito di Libia dopo il vertice che c'è stato oggi. Di questo parleremo approfondendole, perché c'è stato un vertice straordinario a Bruxelles. Poi ci occuperemo anche di cambiamenti climatici, perché il 2019, che ci ha salutato in questi giorni, ha chiuso praticamente il decennio più caldo in assoluto per quanto riguarda l'Italia. A proposito di cambiamenti climatici, cosa sta succedendo in Australia? Sapete che, secondo la denuncia del WWF dell'Australia, sono morti finora 1 miliardo di animali negli incendi in Australia, 1 miliardo di animali. E poi, per alleggerire naturalmente, Sanremo, dove però non mancano le polemiche, come in ogni edizione che si rispetti, sul giornalista palestinese naturalizzata italiana Rula Gibral, che però sembra stata ripristinata, diciamo così, e poi anche sulla presenza di Rita Pavone. Ma insomma, allacciate le cinture che si parte tra poco. Sintesi della giornata, se volete intervenire come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS WhatsApp al 349-238-6666. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Italia e Germania riposizionano le truppe in Iraq. Folla immensa per le esequie del generale Soleimani, con morti e feriti per la ressa. E intanto il Pentagono teme attacchi iraniani con i droni. Libia, vertice straordinario a Bruxelles. L'Europa condanna la decisione turca di inviare le truppe. Il generale Haftar nel frattempo muove verso Misurata. Di Maio a Istanbul. Ex Ilva, l'alto forno 2 non sarà spento. La trattativa con ArcelorMittal può ripartire. Violenza contro le donne. Nel catanese un uomo di 90 anni uccide la moglie di 79 anni a bastonate. La maltrattava da 50 anni. Australia, gli incendi devastanti hanno ucciso sino ad ora 1 miliardo di animali. Il clima in Italia nel 2019 ha chiuso il decennio più caldo di sempre. Sanremo, via libera dopo le polemiche della RAI, via libera a Rula Gibral, ospite, ma intanto malumori su Rita Pavone in gara. Partiamo quindi da questa altissima tensione tra Iran e Stati Uniti in seguito all'uccisione, ormai lo sapete, del generale iraniano Soleimani. Washington teme un attacco con i droni, la NATO ritirerà parte del suo personale, fa sapere. L'Italia e la Germania spostano i militari ma non abbandonano la missione. Tra poco torneremo a parlare del Pentagono relativamente appunto al timore di eventuali attacchi con i droni che potrebbero coinvolgere militari americani. E in Iran oggi è ripresa a Kerman la sepoltura del generale Soleimani, che era stata sospesa per motivi di pubblica sicurezza dalle autorità iraniane dopo che almeno 50 persone sono rimaste uccise e più di 200 ferite nella calca durante la cerimonia organizzata nella città natale del generale a sud-est di Teheran. È stata strage a Kerman in Iran in occasione dei funerali del generale Qassem Soleimani, ucciso nella notte tra il 2 e il 3 gennaio da un drone USA sull'aeroporto di Baghdad. Una marea umana si è riversata nelle strade della città natale del generale e la calca è stata fatale per almeno 50 persone, ha comunicato la televisione di Stato iraniana, mentre oltre 200 sono rimaste ferite. Le esequie sono state sospese e rinviata dall'autorità per ovvie ragioni di sicurezza la sepoltura del generale. Quanto alla vendetta nei confronti degli USA, a dettare la linea è la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, il quale vuole, come riporta il New York Times, che qualsiasi rappresaglia sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani eseguito apertamente dalle forze iraniane. In massima allerta contro eventuali attacchi con droni, le forze USA, le batterie missilistiche per la difesa aerea in Medio Oriente. Gli Stati Uniti fanno però retromarcia sulla possibilità di prendere di mira i siti culturali iraniani, come minacciato via Twitter dal presidente Trump, la smentita da parte del segretario della difesa Mark Esper. Per discutere della situazione, i ministri degli esteri dell'Unione Europea si incontreranno in un vertice straordinario a Bruxelles venerdì. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono vari aggiornamenti in questi istanti con Trump che dice no, rispetterò le norme internazionali per quanto riguarda la minaccia che aveva mosso nei confronti dell'Iran di distruggere siti culturali. Poi dice il ritiro degli Stati Uniti dall'Iraq sarebbe la cosa peggiore per il paese, per l'Iraq. E poi poco fa c'è stata una telefonata sempre su queste tensioni tra Trump e la cancelliera Merkel. Ma intanto ci spostiamo sulla Libia. Oggi è stata la riunione straordinaria dei ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, Bruxelles, con l'altro rappresentante dell'Unione Europea Borrell, di fronte a una escalation, come l'hanno definita, pericolosa del conflitto in Libia. Stop a tutte le interferenze, ha sottolineato Borrell, che invita a trovare una soluzione politica. Di Maio, dopo il vertice, è volato a Istanbul, come avete sentito, vi ho aggiornato poco fa. Le forze del generale Haftar, intanto, annunciano di avanzare ad ovest di Sirte, puntando verso Misurata, che è la più potente città libica schierata con il premier riconosciuto dall'ONU che è al-Sarraj. E su questo vertice straordinario ci aggiorneremo tra poco. Intanto soffermiamoci sulla politica italiana. È slittato a giovedì l'incontro di maggioranza sulla prescrizione. Il governo si dà ancora 2 giorni per trovare l'accordo sulla prescrizione. Il Movimento 5 Stelle, capitanato dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, non desiste. La riforma che ferma la prescrizione dopo il primo grado di giudizio è in vigore dal 1 gennaio e non si tocca. Diversa la posizione di tutti gli altri gruppi di maggioranza che temono che con la riforma nessun processo finirà mai. I Dem chiedono a Bonafede, con Walter Verini, responsabile della giustizia, di abbandonare il totem, soprattutto per discutere della ragionevole durata dei processi. Italia Viva annuncia il no alla riforma e, se non si trova l'accordo, è pronta a votare la proposta di Forza Italia che reintroduce i tempi della prescrizione. Più Europa e radicali organizzano una manifestazione davanti a Montecitorio. Benedetto Della Vedova. L'abolizione della prescrizione è uno scempio giuridico, è contro la libertà delle persone. Per il centrodestra Matteo Salvini attacca uno scempio e il leader della Lega spera poi che il governo cada quanto prima, così a 24 mattino. Mi auguro che si voti nel 2020. Ecco, questo me lo auguro non per Salvini, perché l'economia italiana è totalmente ferma. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E all'interno della maggioranza, acque sempre piuttosto agitate in casa 5 Stelle. Dopo le polemiche delle scorse settimane, tra i 5 Stelle parte la resa dei conti sulle mancate restituzioni. I probiviri si sono riuniti nel pomeriggio per esaminare le posizioni di deputati e senatori che non hanno restituito al movimento parte dei loro stipendi. A rischiare l'espulsione sono i 10 parlamentari che nel 2019 non hanno versato neppure un euro. Nella lista dei morosi c'era anche il deputato Santi Cappellani, che in mattinata ha però annunciato il suo addio al movimento, una nuova fuoriuscita che fa seguito a quelle dell'ex ministro Fioramonti e dei parlamentari Rospi e Angiola, in disaccordo con la linea di Di Maio, così come Gianluigi Paragone, espulso invece per non aver votato la manovra. Un altro movimento, quello delle sardine, nel frattempo annuncia che dopo la fine di gennaio farà un congresso nazionale. Ci daremo una struttura, ma non diventeremo un partito, assicurano i portavoce. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono degli sviluppi per l'ex Ilva. È stato scongiurato lo spegnimento dell'altoforno 2. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso dei commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria. Quindi l'altoforno 2, ricordo, fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l'incidente costato la vita all'operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente. La trattativa quindi con ArcelorMittal pare che possa ripartire. E tocca parlare anche questo inizio d'anno di violenza contro le donne, con un ennesimo femminicidio nel Catanese. Un uomo di 92 anni, Salvatore Plumari, ha ucciso a bastonate la moglie, Concetta Di Pasquale, di 78. L'aggressione è avvenuta, pare, per futili motivi. Lei non aveva potato i rami di un albero di limone come lui aveva chiesto. La donna, prima di spirare in ospedale, ha però avuto la forza di dire che la maltrattava da 50 anni. E a Locri, in Calabria, un 18enne ha coltellato 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere giusto ieri mattina ed è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri. La donna, una 27enne di origine cubana, è ricoverata all'ospedale di Reggio Calabria con ferite al torace e all'addome. È grave, ma non è in pericolo di vita. L'autore, Giancarlo Martelli, è stato trovato nascosto in un intercapedine del sottoteto dell'abitazione con i vestiti ancora intrisi di sangue. Torniamo all'estero, con la Spagna, perché il leader socialista Pedro Sánchez ha ricevuto la fiducia per formare il nuovo governo. Queda otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. È stato eletto con soli due voti di differenza nuovo presidente del Consiglio spagnolo, il socialista Pedro Sánchez. A suo favore 167 deputati, 165 contrari, 18 gli astenuti. Per il politico del PSOE è stata sufficiente la maggioranza semplice dopo il fallimento dell'investitura nella prima votazione di domenica a maggioranza assoluta. Soprattutto per la prima volta nella sua storia democratica la Spagna avrà un governo di coalizione. Coalizione di centrosinistra tra socialisti e Podemos, che dovrà necessariamente contare sull'astensione tattica dei separatisti catalani di Esquerra Repubblicana e dei baschi di Ace Bildu. Anche ieri il dibattito politico in Parlamento è stato aspro, con la destra ed estrema destra iberica che hanno accusato Sánchez di aver formato la compagine più radicale della storia del paese e di aver svenduto la governabilità ai separatisti catalani e baschi. Con il governo di coalizione progressista si apre una stagione di dialogo e politica utile, un governo per tutte e tutti che estende i diritti, ripristini la convivenza e difenda la giustizia sociale, così ha twittato Sánchez dopo la fiducia. Giornava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Spagna all'Australia, oltre 1 miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che hanno bruciato finora 8,5 milioni di ettari in tutta l'Australia, una superficie equivalente all'intera Austria. Sono le ultime stime del WWF Australia. Secondo l'associazione si tratta di un'apocalisse, una perdita straziante, dice il WWF, che comprende migliaia di preziosi koala della costa centro-nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come i canguri, come il wallaby. Comunque ne parleremo col direttore scientifico di WWF Italia. E poi i cambiamenti climatici, poi capiremo se anche questi incendi in Australia sono legati ai cambiamenti climatici, che sicuramente si fanno sentire in Italia con il secondo dicembre, quello appena passato, più caldo dal 1800 ad oggi. Il 2019 ha chiuso con un'anomalia di più 0,96 gradi sopra la media, risultando il quarto anno più caldo per il nostro paese dopo il 2014, 2015 e 2018. Finisce così il decennio più rovente di sempre in Italia, secondo la banca dati di climatologia storica dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. E anche di questo poi ci occuperemo nel corso di questa puntata, così come di Sanremo. Via libera della RAI alla giornalista di origine palestinese naturalizzata italiana che vive a New York, Rula Jebral, anche se si aprono poi delle polemiche e malumori sulla presenza di Rita Pavone. Poi capiremo perché. Intanto vi ricordo, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Ci sentiamo tra pochi istanti, cominciamo ad approfondire i vari temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, come sempre, anche in questo 2020, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ricchissimi di informazioni, con la sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta, costanti, che vi do, di approfondimenti con gli ospiti e anche con le vostre riflessioni, i vostri commenti alle notizie del giorno al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure per voi comodamente c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Se non avete acceso puntualmente alle 21, mi raccomando, però siate puntuali. Vi ricordo, prima di cominciare con il primo ospite, quali sono gli argomenti principali di questa giornata. La crisi tra Stati Uniti e Iran, naturalmente, con Italia e Germania che riposizionano le truppe in Iraq. Una folla immensa c'è stata per l'esequie del generale iraniano ucciso dagli americani Soleimani, con morti e feriti per la ressa. Intanto il Pentagono teme attacchi iraniani con i droni. Ci collegheremo con gli Stati Uniti per parlare di questo argomento, così come parleremo di Libia, del vertice straordinario che c'è stato oggi a Bruxelles, mentre Di Maio poi, dopo questo vertice, è volato a Istanbul, sta parlando in questi istanti col suo omologo, il ministro degli esteri turco, che sapete che la Turchia ha mandato dei militari, delle truppe in Libia. Ex Ilva, l'altoforno 2 non sarà spento e così la trattativa con ArcelorMittal può ripartire. Poi anche in questo 2020 di nuovo violenza contro le donne, con un 18enne che ha coltellato 14 volte a Locri in Calabria la propria compagna con la quale era andato a convivere proprio ieri, è stato arrestato. E poi l'ennesimo femminicidio nel Catanese: un uomo di 90 anni ha ucciso la moglie di 79 anni a bastonate, la maltrattava da 50 anni. In Australia gli incendi devastanti hanno ucciso sinora 1 miliardo di animali. E poi clima: in Italia il 2019 ha chiuso il decennio più caldo di sempre. Sanremo con le polemiche di cui parleremo. Ieri ho ricominciato con voi, effettonote nel nuovo anno, nel 2020, con le due principali crisi internazionali, dicendo tra l'altro che la parola chiave di questo 2020, almeno per quanto riguarda la partenza, è escalation, molto usata anche appunto dai vari leader mondiali e da coloro a capo delle varie istituzioni, agenzie internazionali, che stanno vedendo un po' che cosa succede appunto nel Medio Oriente e in Libia. Allora, la prima crisi internazionale di cui abbiamo parlato è quella relativa all'incandescente tensione tra Iran e Stati Uniti dopo l'uccisione decisa da Trump in un blitz americano in Iraq del potente generale iraniano Soleimani. E poi la sempre più caotica situazione in Libia, con NATO, ONU e Unione Europea che premono, entrambe le crisi internazionali, per delle soluzioni diplomatiche. Per quanto riguarda le minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, che Iran che vuole vendetta, il Pentagono teme attacchi con i droni, ma di questo parleremo dopo. Invece, per quanto riguarda la Libia, oggi si è tenuto a Bruxelles un vertice straordinario tra i ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, con l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell, che ha detto che è necessario, di fronte a questa escalation davvero pericolosa del conflitto, trovare una soluzione, una mediazione diplomatica. Questo mentre è battaglia tra le forze del governo di salvezza nazionale di Serraj, che è quello appoggiato dalla gran parte dell'Occidente, e le forze militari del generale Haftar, che sta cercando di raggiungere Misurata, che è una delle città più importanti, che è schierata appunto con il premier al-Sarraj. Ma su questo voglio subito interpellare il nostro Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Buonasera a tutti. Allora, Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, ha detto: abbiamo chiesto un cessate il fuoco, ma anche di fermare l'escalation, le interferenze esterne che sono aumentate negli ultimi giorni. Ovviamente fa riferimento alla Turchia, che ha mandato delle proprie forze militari. E poi Di Maio, Di Maio, che ha detto: la situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma l'Unione Europea deve riprendere un ruolo importante. Sentiamo Di Maio. Sono contento che si sia fatta questa riunione, non importa il dove, si doveva tenere in Libia, ma le condizioni di sicurezza non l'hanno permesso, ma le iniziative da domani dell'Unione Europea vedranno un cambio di passo. Al ministro turco chiederà di fermare l'invio di soldati di Ankara in Libia. Fatemi fare prima gli incontri. Grazie. E come vi dicevo, l'incontro è in corso proprio in questo momento del ministro degli esteri Di Maio con l'omologo turco. Di Maio poi ha sottolineato anche l'importanza che la Libia ha per l'Italia, non soltanto per le nostre aziende, per il petrolio eccetera, ma anche per il pericolo terrorismo. La Libia è un rischio per l'Europa anche per il pericolo terrorismo. C'è una guerra per procura, bisogna cessare tutte le interferenze, perché ci sono paesi che interferiscono con quella guerra civile, facendola diventare una cosiddetta proxy war. E il nostro lavoro da domani come Unione Europea sarà coeso, l'Unione Europea parlerà e deve parlare con una sola voce. E poi ha chiesto il cessate il fuoco, come dicevo. Gerardo, ti sembra da questo vertice che veramente poi l'Unione Europea possa fare un passo concreto in avanti, parlare con una sola voce, come dice Di Maio? È una prima mossa, ma probabilmente tardiva, quando già sul terreno si confrontano schieramenti militari. Anche il comunicato, che è un comunicato buono, positivo, di questo vertice a quattro con Borrell, in realtà è stato frutto di una mediazione anche faticosa, perché alla fine è stato sconfitto e respinto quello che era il wording, cioè la norma di linguaggio che avrebbero voluto imporre la delegazione francese, il ministro degli esteri francese, che in realtà era un po' una fotocopia della narrativa di Haftar, e cioè praticamente tutta contro l'arrivo delle truppe turche a sostegno del governo di Serraj, e quello è stato stoppato, e quindi c'è una almeno parvenza di unità, che poi adesso bisognerà vedere se e come l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell riuscirà a mettere a sistema. E non è escluso che già domani possa il governo di Serraj, lo stesso Serraj col suo ministro degli esteri Siala, recarsi a Bruxelles per incontrare, oltre a Borrell, il presidente del Consiglio europeo Michel, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Parlamento Sassoli. Non è neppure escluso che lo stesso Haftar possa raggiungere Bruxelles, ovviamente in maniera separata, ma poiché non è riconosciuto dalla comunità internazionale, il suo sarebbe un incontro soltanto con Borrell, per ovviamente metterlo a parte di quello che è stato il risultato di questo vertice. Poi venerdì ci sarà una riunione comunque di tutti e 28 i ministri degli esteri di tutta l'Unione Europea, per fare il punto sia sull'Iran-Iraq che anche sulla Libia. Come hai ricordato, Di Maio è a cena, pranzo e cena di lavoro con il ministro degli esteri turco. In questo momento i turchi si erano anche un po' risentiti di questo attivismo, perché poi domani volerà il ministro Di Maio, volerà anche in Egitto, e quindi c'è una, come si dice, una diplomazia al lavoro, insomma, febbrile, che è al lavoro. E lo stesso Conte sta programmando una missione nei paesi vicini, pure lui in Egitto e paesi del Golfo, Emirati, perché sicuramente si cerca di facilitare quello che è il lavoro diplomatico in vista e soprattutto con il forte sforzo della Germania. Ecco, ricordiamo che la Germania è in questo momento decisiva, ed è stata la Germania insieme all'Italia che ha respinto questo comunicato che volevano i francesi, un po' troppo filo Haftar. E la Germania cerca di riunire la conferenza di Berlino entro il mese, e quindi sono tutte iniziative che però si scontrano contro una situazione sul terreno che è quella che è. Da un lato, appunto, i droni, come hai detto tu, l'attacco scuola, all'Accademia di Polizia delle forze di Serraj, con poi un maldestro tentativo di scaricare responsabilità sull'ISIS. Le scene che si vedono nel documento filmato sono raccapriccianti, di questo missile che ha prodotto 30 morti e innumerevoli feriti. Quindi siamo in una situazione di guerra aperta, di guerra civile, ma lo stesso Haftar, una volta che dovesse, dopo Sirte, conquistare anche Tripoli, anche per lui non ci sarebbe vita facile, perché le milizie sono totalmente fuori controllo anche per lui. Quindi la situazione è una situazione in evoluzione, con un punto fermo positivo che è l'incontro di oggi, il documento di Bruxelles di oggi, e si spera che domani, con l'arrivo di Serraj a Bruxelles, probabile, con il meno probabile, ma comunque al quale si sta lavorando, arrivo di Haftar, si cerchi di facilitare questo primo step, che è quello di Berlino. Dopodiché a Ginevra, secondo l'inviato delle Nazioni Unite Salama, si cercherà di riunire l'assemblea, quindi che comprende tutti quanti i soggetti interessati in questo difficile mosaico libico. Grazie Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Grazie Gerardo. Grazie a voi. Ciao. Adesso invece ci colleghiamo con gli Stati Uniti, dove ci attende Marco Valsania. Caro Marco. Buonasera. Raccontavamo in questi giorni, ovviamente, della tensione che cresce, ecco perché si dice escalation in lingua anglosassone, tra Stati Uniti e Iran, dopo, ormai lo sapete, l'abbiamo ripetuto in questi giorni, l'uccisione da parte delle forze speciali americane in un blitz in Iraq del potente generale iraniano Soleimani. E a questo punto, lo dicevamo, minacce reciproche con l'Iran che assicura agli Stati Uniti che se non se ne andranno dal territorio iracheno, che insomma è conteso tra come ascendenza dall'Iran e dagli Stati Uniti, se non se ne andranno gli Stati Uniti dall'Iraq sarà un nuovo Vietnam. E poi ieri ancora i vertici iraniani che hanno detto neanche la morte di Trump può vendicare Soleimani. Trump a sua volta aveva ribadito di minacciato di colpire i siti culturali iraniani, però vedevo poco fa Marco che invece ha fatto dietro front su questo, chiaramente vista il biasimo della comunità internazionale ha detto no, mi comporterò secondo le regole da questo punto di vista. Però intanto il Pentagono, quindi il Ministero della Difesa americano, teme un attacco iraniano con i droni. I possibili obiettivi potrebbero essere i militari americani, no? Naturalmente, Marco. Sì, a questo punto diciamo il Pentagono e le forze di sicurezza americane sono concentrate sul cercare di capire quale potrà essere e dove potrà esserci la risposta, appunto la promessa minacciata risposta a rappresaglia iraniana all'uccisione di Soleimani. Al momento il focus è soprattutto sulle forze americane in Medio Oriente, quindi sulle basi americane, sulle installazioni americane militari. Non credo che si tratti di un drone in questo caso sul nostro Marco Valsania, per fortuna, però vediamo di ripristinare la linea il prima possibile, appunto per parlare di questa allerta, massima allerta lanciata dagli Stati Uniti, dal Pentagono per quanto riguarda gli Stati Uniti, contro eventuali attacchi iraniani con i droni, quindi dall'alto. Il segretario di Stato americano, che equivale al ministro degli esteri degli altri paesi, Mike Pompeo, ha detto: se Teheran ha risposto così farà un'altra cattiva scelta, il presidente Trump risponderà in modo deciso e serio. Capito, Marco Valsania? Sì, scusami, ho perso l'ultima cosa che hai detto, ero in arrivo al... Dicevo, ho risintetizzato quello di cui stavamo parlando, no? Di questo eventuale rischio di droni, di attacchi iraniani, visto che l'Iran ha giurato vendetta nei confronti degli Stati Uniti, il Pentagono ha lanciato questa massima allerta. Sì, esattamente, ha messo in stato d'allerta tutte le installazioni militari e diplomatiche in Medio Oriente, in questo momento ha rafforzato anche il dispositivo militare statunitense nella regione, sono in arrivo, sono arrivati circa 10.000 nuovi soldati americani che portano l'intero contingente statunitense nell'area della regione a circa 80.000 uomini tra forze di terra, marines, marinai imbarcati su un gruppo navale, e farà distaccati nelle varie ambasciate dei vari paesi della regione. Il timore anche se i bombardieri vicini. Niente, che difficile la comunicazione, evidentemente, non so se ci siano in mezzo i servizi segreti iraniani. Riproviamo ancora un'ultima volta a contattare Marco Valsania, evidentemente è molto difficile questo collegamento dall'altra parte dell'oceano. Intanto vi anticipo già che poi dopo la pausa parleremo di clima in Italia, di questo 2019 che ha chiuso il decennio più caldo di sempre per quanto riguarda il nostro paese e poi anche di Australia. Ma intanto concentriamoci sull'America ancora una volta con Marco Valsania. Ultimo tentativo, Marco, prego. Assolutamente. Sì, dicevamo che quindi questo stato di massima allerta per le forze americane nella regione, il timore, come ricordavi tu, è quello di attacchi missilistici iraniani, in particolare con droni, anche perché l'Iran ha dimostrato in questo senso una capacità di farlo, l'ha dimostrato l'ultima volta appunto l'attacco alle installazioni petrolifere dell'Arabia Saudita, dove appunto furono lanciati missili probabilmente da droni iraniani. La tecnologia quindi l'Iran ce l'ha per attacchi piuttosto precisi con simili ordigni, quindi le forze americane temono che la rappresaglia possa essere effettuata con questo tipo di mezzi, di strumenti, di droni, di mezzi, di strumenti appunto contro le installazioni militari o diplomatiche, per il momento soprattutto in Medio Oriente. Probabilmente l'allarme si allargherà anche perché la storia delle rappresaglie iraniane a azioni americane mostra che in passato hanno colpito anche sedi diplomatiche, installazioni, in realtà statunitensi, gli alleati degli Stati Uniti in altri paesi, dalla Bulgaria all'Argentina, quindi è possibile che in prospettiva arriva, alcuni analisti dicono che poi questo allarme, diciamo, per una rappresaglia iraniana si allarghi anche, diciamo, si allarghi, diciamo, su scala internazionale anche ad altri potenziali obiettivi di Teheran. E poi dicevo, per chiudere, Marco, che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto: se Teheran farà un'altra cattiva scelta, in realtà la prima cattiva scelta, diciamo, negli ultimi tempi l'ha fatta Trump. Ieri dicevamo anche che il segretario generale della NATO Stoltenberg ha detto: questa decisione è stata presa da Trump di uccidere il generale iraniano, non dalla NATO. Quindi, dicevamo, aveva sottolineato questa distinzione prendendo un po' le distanze. Comunque Pompeo ha detto: se Teheran farà un'altra cattiva scelta, il presidente Trump risponderà in modo deciso e serio. Ieri ci eravamo lasciati dicendo: non si capisce bene quale sia la strategia di Trump e se dovesse veramente l'Iran avere una forte reazione, quale potrebbe essere poi la prossima mossa, no? Effettivamente questo rimane ancora tuttora l'interrogativo principale aperto, diciamo, quale sia, quale possa essere, diciamo, la strategia futura dell'amministrazione Trump di fronte a una potenziale ulteriore grave escalation della tensione e del conflitto, diciamo, se la rappresaglia iraniana arriverà. Quale sarà il giudizio dell'amministrazione Trump a questo punto, sulla base di quindi, diciamo, le incognite sono davvero molte. Marco, Walter scrive: per esempio, gli americani adesso aspettano la reazione iraniana per chiudere definitivamente la questione del nucleare iraniano, ma non lo so se davvero dovesse scoppiare un qualche conflitto anche locale, ma non credo se sia possibile chiudere definitivamente la questione del nucleare iraniano dopo che Trump, appunto, aveva stracciato l'accordo che con fatica Obama aveva raggiunto con l'Iran, no? Di utilizzare la soluzione, esatto, una via diplomatica, diciamo, alla problema nucleare iraniano e alla crisi iraniana appare in questo momento ferma, paralizzata e distrutta. Una soluzione militare allo stesso tempo appare drammatica, perché non se ne vede una riuscita. È impensabile immaginare a una invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti, cioè impensabile, tutto è sempre possibile, ma sono scenari piuttosto lo scenario remoto. Diciamo è apocalittico. L'Iran non è l'Iraq, non è la Siria, diciamo, è un paese che sarebbe impossibile gestire, controllare o ricostruire per gli Stati Uniti. Marco, c'è un altro ascoltatore che dice: ma voi pensate che Trump decida veramente in autonomia? Finora le accuse della comunità internazionale e anche dello stesso Parlamento americano sono state queste, insomma, che ha deciso con i suoi falchi attorno senza preavvertire il suo Parlamento e anche condividere queste decisioni con la comunità internazionale, con gli alleati. Però per il momento ci fermiamo qui. Grazie Marco Valsani dagli Stati Uniti. E compra un altro cellulare, magari, ecco, diciamo, in quelli molto tecnologici. Qui ci fermiamo momentaneamente per una pausa di respiro e di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche in questo 2020, sempre con Roberto Giordano con voi, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, in modo che a fine giornata voi abbiate un quadro il più chiaro e esauriente possibile di quello che è di più importante, cioè da sapere dall'Italia e dall'estero. Adesso abbiamo parlato, appunto, delle crisi internazionali, delle due principali crisi internazionali. Concentriamoci sul caldo in questo momento, non tanto però il caldo, quello positivo, piacevole, che ci rallegra, ci illumina, ci rilassa nelle stagioni, nei momenti opportuni, ma evidentemente quello anomalo, quello dei cambiamenti climatici, che stabilisce sempre più record di alte e costanti temperature. Per quanto riguarda l'Italia, secondo la banca dati di climatologia storica dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, il 2019, l'anno che si è appena chiuso, ha concluso il decennio più caldo di sempre per quanto riguarda l'Italia, con il secondo dicembre, questo del 2019, più caldo dal 1800 ad oggi. Ha chiuso quindi l'anno con un'anomalia di più 0,96 gradi sopra la media, risultando il 2019 il quarto anno più caldo per il nostro paese dopo il 2014, il 2015 e il 2018. E allora voglio chiedere lumi al professor Stefano Casarini, che è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, coordinatore del comitato scientifico del sito climalteranti.it, nonché autore del libro Il clima è cambiato, 9 buone notizie sul cambiamento climatico. Buonasera professor Caserini. Buonasera. Quindi anche per quanto riguarda il nostro paese, diciamo, la situazione non sembra rosea, ma è lo stesso scenario così su scala globale? Il nostro paese ha dei problemi specifici da questo punto di vista? Ma il nostro paese si sta scaldando come si sta scaldando l'intero globo. Tutte le terre emerse sono un po' più calde rispetto alla media globale, perché viceversa gli oceani si scaldano di meno. In Italia e un po' anche in tutto il Mediterraneo il riscaldamento è quasi il doppio rispetto alla media globale. In alcune zone, se pensiamo all'Artico, in realtà è quasi il triplo della media globale, quindi il riscaldamento globale è inequivocabile, hanno scritto gli scienziati dell'ONU ormai 12 anni fa, quindi è chiarissimo, e adesso si cominciano a vedere gli effetti che in parte erano anche previsti tanti decenni fa da chi studiava già la scienza del clima. Quindi, a parte il caldo, professor Caserini, per quanto riguarda il nostro paese, quali sono i fenomeni conseguenti che si osservano, almeno così più plateali? Allora, oltre agli eventi estremi di temperatura, quindi la maggiore frequenza e intensità delle ondate di calore, e si sentono soprattutto quando è già caldo, quindi nei mesi estivi, in luglio e agosto, un'altra tendenza che è in atto è quella di una estremizzazione delle precipitazioni, quindi la pioggia cade in modo più concentrato, in modo, quindi con eventi intensi, più frequenti, e questo, pur se un segnale irregolare a scala globale, in molte regioni italiane si comincia a vedere. Quindi, e questo naturalmente poi influenza la possibilità di alluvioni, che poi sono legati anche poi magari a una cattiva gestione del territorio. Questo è un altro effetto, un effetto che è previsto anche per il futuro come intensificazione, tanto più andrà avanti il riscaldamento globale. E poi il riscaldamento porta con sé altri impatti, pensiamo ad esempio alla fusione accelerata dei ghiacci, non soltanto i ghiacci montani, che ormai anche questo è un dato inequivocabile per l'Italia, la riduzione dei ghiacci sulle nostre Alpi, ma anche poi le calotte glaciali, il ghiaccio marino nella zona dell'Artico. Ecco, se fa caldo il ghiaccio fonde, questo sarebbe strano il contrario, e quindi i dati sono congruenti, questi sulla perdita dei ghiacci, e la perdita delle calotte glaciali influisce anche poi sull'aumento del livello del mare, e anche questa è una tendenza che pur con una grande inerzia si sta vedendo, insomma il mare sta, l'aumento del livello del mare sta accelerando. Professor Caserini, c'è un ascoltatore che scrive: temperature in Italia più alte di sempre, attorno all'anno 1000, dice, la temperatura era più alta dappertutto, quindi dice anche il territorio italiano, la Groenlandia non era ricoperta dal ghiaccio, che rapporto c'è in tutto ciò? Non so, vuole rispondere sinteticamente al professore? Sì, ma questa è una delle tante, chiamiamole, leggende metropolitane, luoghi comuni che non hanno nessun fondamento scientifico. Siamo sicuri che il ghiaccio nella Groenlandia c'è da più di 500.000 anni, nell'anno 1000 era verde qualche fiordo, come anche oggi tantissimi fiordi sono verdi. Quella della Groenlandia in realtà è un problema molto serio, perché la Groenlandia sta perdendo appunto centinaia di miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno, quindi è una fusione gravissima, ma anche per via dell'inerzia, il fatto che adesso sta accelerando. Ma quella di Erich il Rosso, insomma, io in un mio libro del 2008 avevo raccontato una di questa storia che gira, che ancora oggi ha tanto successo, sul fatto che la Groenlandia è stata chiamata terra verde perché era verde, in realtà era verde sotto soltanto qualche fiordo. Siamo sicuri, perché abbiamo i dati delle temperature, che appunto da almeno 150 anni non abbiamo mai avuto così temperature così calde. Se si va indietro con i dati della dendrocronologia si riesce a capire che in effetti queste temperature non hanno paragoni almeno con gli ultimi 1000 anni. Quindi questi decenni così caldi, poi non siamo sicuri se singoli anni, perché non abbiamo questa precisione, ma andrà avanti questa tendenza. Mentre nel passato, se c'è stato caldo, è stato soprattutto in modo localizzato, non a livello globale, non è stato un riscaldamento globale quello di che professore, è successo. Per quanto riguarda invece l'Australia, tra poco parlerò di Australia, di questo miliardo di animali che sarebbero morti negli incendi che durano da mesi, anche se sono state arrestate in questi ultimi giorni 180 persone denunciate e 24 arrestate per incendio doloso, però pare che dipenda anche dai cambiamenti climatici, perché incendi così devastanti in Australia non ci sono mai stati. Sì, una parte degli incendi sono legati alle attività umane, ai piromani, una parte invece sono legati ai fulmini, che sono un fenomeno ricorrente in Australia. Quello che succede è che però con la tendenza delle temperature, con questa anomalia particolare delle temperature, ha fatto veramente caldo in modo impressionante quest'anno e anche l'anno scorso, sono due anni di grande caldo e di siccità prolungate che hanno reso più aride tutte queste zone, per cui incendi che prima avvenivano naturalmente ma si fermavano, adesso hanno raggiunto una scala che è veramente qualcosa di incredibile, che non ha paragoni con quello che è successo negli ultimi decenni, quindi stiamo superando tranquillamente tutti i record precedenti. Quindi l'estensione degli incendi è legata in modo, secondo gli esperti forestali, inequivocabile alle alte temperature che ci sono. Queste alte temperature sono una delle conseguenze del riscaldamento globale. Professor Caserini, per chiudere, visto che lei ha scritto un libro che si intitola Il clima è cambiato, 9 buone notizie sul cambiamento climatico, ce ne dica una che almeno di consolante, di confortante. Una è che sappiamo quello che sta succedendo, sappiamo che è colpa delle attività umane, sappiamo che abbiamo tanti modi con cui possiamo almeno cercare di ridurre i danni. E molte di queste cose che possiamo fare per ridurre i danni ci convengono su tanti altri piani, dai posti di lavoro al fatto di avere magari minore inquinamento dell'aria, che anche questo in questo momento è un problema, in particolare per la pianura padana. Quindi si può fare qualcosa, non costa neanche così tanto. Ne ho dette 4-5. Trasformarle in risorse, insomma, questa situazione, in un'occasione di rilancio, per l'occupazione, per respirare meglio. Questo è il risvolto, diciamo, se proprio vogliamo metterci la buona volontà. Grazie intanto, professor Stefano Caserini. Grazie. Prego, buon anno. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, scrive un'ascoltatrice, ascoltatore, non si firma, quindi non so, dice: ma avvisare chi, a proposito di Trump, che secondo il Parlamento americano doveva condividere questa decisione di uccidere il generale iraniano, e anche la comunità internazionale, che dice, almeno con i suoi alleati, doveva condividere questa scelta. Dice: ma avvisare chi? Ma Roberta, se sei tu una donna intelligente, se lo dice lui, lei, mi fido. Comunque dice: ti pare che nel momento in cui si decide di assassinare un nemico si possa chiedere il permesso al Parlamento o avvisare gli alleati? Pensi che l'obiettivo resti lì ad aspettare mentre migliaia di persone decidono se deve morire o no? In realtà però, in una situazione del genere, si tratta poi di scatenare le ire dell'Iran, che sappiamo che se comincia, come ha deciso, di sviluppare l'uranio per non più per obiettivi civili, di energia eccetera, ma per le armi nucleari, poi questo ricade su tutti, gli attentati, il resto. Quindi non è che uno può dare lì scatenare poi una reazione globale in cui ci rimettono anche gli altri e deciderlo da solo. Persino, vi dicevo ieri, l'ho anche letta testuale la dichiarazione del segretario generale della NATO Stoltenberg, che ha detto: questa, si sappia, è una decisione presa da Trump e non dalla NATO. Cosa voleva dire secondo voi? Bene, adesso però restiamo sulla questione dei cambiamenti climatici, o meglio, comunque in parte sì e in parte no, degli incendi devastanti in Australia, che non sono forse, diciamo, i più mortali, perché sono morte fino a questo momento 25 persone, mentre nel 2009 ne sono morte almeno 170, però ha avuto un impatto veramente senza eguali nel passato, negli ultimi decenni. David Bowman, che è professore all'Università della Tasmania e direttore di un centro di ricerca sugli incendi in Australia, ha detto alla rivista Time: l'intensità, la portata, il numero, l'ampiezza geografica, la simultaneità degli incendi e la varietà di ambienti che stanno bruciando in Australia sono tutte fuori dall'ordinario. Siamo in uno stato di guerra. Ne voglio parlare con Marco Galaverni, direttore scientifico WWF Italia. Buonasera Galaverni. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Perché, a proposito della distruzione terrificante in Australia, questi incendi che hanno distrutto 2000 case, evacuate tantissime persone, bruciati 8 milioni e mezzo di ettari in tutta l'Australia, che è pari al territorio intero dell'Austria, WWF Australia ha denunciato che 1 miliardo di animali sono morti nei roghi in Australia. E si parla proprio di un'apocalisse, d'accordo lei Galaverni? Sì, purtroppo è così, le cifre sono impietose e sono anche difficili da cogliere nella loro ampiezza, appunto, per quanto abituati a roghi estivi sui nostri territori italiani, questo ha qualcosa di una scala di un ordine di grandezza ancora maggiore, e le stime, per quanto grossolane si possano fare a questo stadio della situazione, però parlano molto chiaro, è è un'ecatombe vera e propria per la fauna selvatica e per interi ecosistemi, alcuni dei quali in parte abituati a incendi più o meno regolari, ma mai di questa intensità di fusione, ed altri ecosistemi invece che non sono solitamente esposti a incendi di questo tipo, per cui ricordando soprattutto quella che è l'unicità della fauna e degli ecosistemi australiani, veramente unici al mondo, stiamo rischiando di perdere interi gruppi di specie endemiche dell'Australia proprio a causa di questi incendi devastanti. Ricordiamo tra tutti naturalmente i koala, abbiamo visto tante scene strazianti, no? Di koala ustionati, di persone che cercavano di salvarli e poi i canguri, veramente una cosa straziante, desolante. Sì, purtroppo sono decine le specie che chiaramente quelle meno vagili come i koala sono più esposte a rischio e soprattutto avendo popolazioni già ridotte al lumicino a poche decine di migliaia di esemplari stanno veramente rischiando grossissimo con questi incendi, ma anche specie più mobili come i bellissimi cacatua australiani o gli stessi canguri, pure capaci di muoversi, non riescono a tenere il passo della avanzata degli incendi sempre più intensi. Tra l'altro mi pare che in questo conteggio di circa 1 miliardo di animali non siano considerati per esempio gli insetti, quindi sono per lo più mammiferi, rettili. Esatto, solamente uccelli, rettili e mammiferi, quindi gli animali più grandi, ma sicuramente non i più numerosi, per cui estendendo ad aracnidi, anfibi, insetti e altri gruppi animali le cifre sarebbero ancora più significative. Tutto questo chiaramente ha delle cause scatenanti come che sono state riportate dai giornali di vario tipo, in parte dolosi, in parte accidentali, in parte naturali. Chiaramente però il cambiamento climatico ha avuto un importantissimo effetto in tutto questo, le temperature da record, la piovosità molto molto limitata hanno creato veramente i presupposti per cui si potessero sviluppare queste tragedie che tra l'altro erano state previste da un report commissionato dallo stesso governo australiano nel 2009 in cui gli scienziati avevano previsto un aumento fino al 65% delle giornate in cui il rischio di incendi sarebbe stato estremo. E per questo ci sono 2020. Delle polemiche sul primo ministro australiano, perché sembrerebbe insomma non abbia fatto gli investimenti e preso le misure giuste. Comunque ricordo che nel frattempo sono attive delle raccolte fondi in tutto il mondo che hanno già ottenuto alcuni milioni di dollari, si sono mobilitate anche le star, per esempio Elton John durante un concerto a Sydney in Australia ha annunciato che devolverà $1 milione, poi le australiane attrici Nicole Kidman e la cantante Kylie Minogue sono arrivate $500,000 ciascuna, comunque insomma ci vorrà ancora molto molte risorse e molto tempo per chiudere questo capitolo terribile. Grazie Marco Galaverni, direttore scientifico di WWF Italia. Grazie. Grazie a voi. E buon anno. Ebbene sì, ci sarà anche lei, l'indomita vulcanica, nonché matura, Rita Pavone, al prossimo Festival di Sanremo all'inizio di febbraio, ormai ultimata la lista dei concorrenti e anche degli ospiti in questa edizione che sarà condotta da Amadeus, ma come in ogni Festival di Sanremo, cara Marta Cagnola, ciao Marta. Eccoci qua, ciao Roberta. Dicevo, in ogni festival, di Sanremo non possono mancare le polemiche, è chiaro questo, altrimenti certo, che festival è? Quelle che anticipano canzoni, ovviamente il festival, no? Mica durante. Le canzoni le sentiremo tra un mese e le polemiche invece ci sono già tutte. Ovviamente si parla di politica, perché ovviamente si butta tutto in politica, come non buttare in politica Sanremo? Allora, ovviamente criticata Rita Pavone perché, nome uscito così improvvisamente ieri sera, in extremis proprio, sì, in extremis insieme a quello di Tosca, perché ha spesso esternato sui social le sue posizioni apertamente, così diciamo più filo sovraniste che dall'altra salviniane, parte, così insomma, per, è un po' salviniana. Poi aveva attaccato duramente anche Greta, no? L'attivista, la giovane aveva attivista. Criticato Greta, aveva litigato con i Pearl Jam, insomma le ha fatte di tutti i colori, però insomma libertà di parola e grande sincerità. Allora qualcuno ha detto, beh però perché ci deve essere Rita Pavone e non ci deve essere Rula Gebreal, l'altro grande personaggio controverso di questi giorni, prima annunciata con un'indiscrezione come co-conduttrice ospite per una sera, Poi lei stessa ha dichiarato alla Repubblica, no, mi è stato chiesto di fare un passo indietro perché i sovranisti hanno paura della mia apertura culturale, eccetera. Invece pare che oggi sia arrivato il via libera della RAI, incontro tra Amadeus, Foa, direttrice di rete Teresa De Santis, insomma, Roulin Gebreal ci sarà. Insomma, questa strana par condicio è stata organizzata per questo 70° Sanremo. Marta, ricordiamo Roulin Gebreal, che è giornalista, scrittrice, opinionista, che è, certo, esperta, diciamo, di Medio Oriente, perché è di origine palestinese, anche se un ascoltatore dice no, in realtà è arabo israeliano, italiana, con cittadinanza naturalizzata italiana, però vive a New York. Sposata con un americano. Ecco, diciamo sì, che sì, è piuttosto globale come figura, come donna. E lei diceva, hanno paura che io porti questo modo attuale di essere, no? Di essere tante cose insieme, senza paura, senza razzismi, eccetera. Però mi pare che farà, il tutto si è ammorbidito perché farà un monologo solo sulla violenza contro le donne, no? Quindi le donne, sì, diciamo, figure femminili al centro di queste polemiche che anticipano il festival. Allora sì, perché queste co-conduttrici saranno tutte donne, quindi porteranno tutte delle esperienze al femminile in un festival in realtà non molto femminile. I due nomi, infatti, aggiunti a sorpresa ieri sera come cantanti, sono entrambi, no? Di donne. Sì, perché erano solo 5 su 22, adesso sono 7 su 24, comunque poche le voci femminili, perlomeno le cantanti femminili sono pochissime, davvero poche, però ci saranno moltissime donne sul palco. Infatti Amadeus dice, voglio il festival delle donne, però l'ha scelto, penso che da direttore artistico abbia soprattutto fatto lui la scelta di poche donne come cantanti, però ha compensato poi con le ospiti, con le opinioniste, con i vari personaggi che si alterneranno femminili su questo. Quando inizia? Il 4 febbraio, Marta, vero? Il 4 febbraio, sì, tra un mese è già cominciato, è già nel pieno. Bene, avremo modo di parlarne, grazie Marta Cagnola, ciao Marta. A presto. E direi che ci sentiamo brevemente alle 22.